Prego, professor Fagioli. Sul podio, su, però mi trovo un po' in imbarazzo. Silenzio, per favore. Che è che non va? Silenzio, per favore. Cos'è che non va? No, no, no, prego. Va bene tutto. Sono stato preso di sorpresa. Non mi aspettavo, io ero venuto a sentire la collega Gatti, perché il lavoro della collega Gatti e di tutti gli altri neonatologi, eccetera, e anche ostetrici, si lega, per non dire è la base, di tutta un'elaborazione teorica sulla formazione della vita umana. E qui io credo che sia assolutamente necessario che sia breve, velocissimo, rapido, eccetera. Mi riferisco al collega psichiatra, e accanto al collega psichiatra questa frase terribile di Viale, per me assolutamente terribile, cioè nel collega psichiatra si parla sempre di bambino, non si parla mai di feto, mentre è assolutamente necessario per fare anche ricerca psichiatrica prima di fare assistenza psichiatrica, perché sono perfettamente d'accordo con lui che dice non ci penso nemmeno, perché le donne che decidono più o meno tristemente o per propria libertà di abortire non hanno niente a che vedere con la malattia mentale, sia chiaro questo. Quindi soltanto in qualche caso, l'occasione che c'è una che evidentemente è una malata, allora vada bene per lo psichiatra. Ma lo psichiatra, in primo luogo, prima di fare tutte quelle belle cose che ci ha raccontato, dovrebbe cominciare a dire, ma so che con questo si scontra con una cultura molto dominante e anche secolare, per non dire millenaria. Il feto non è un bambino. Certo. E la signora Gatti ci ha chiaramente confermato quello che sto dicendo da 55 anni, che a un certo momento della gravidanza comincia non la vita, ma la possibilità di vita. Nella frase, in queste poche parole c'è che la possibilità di vita dice categoricamente che la vita non c'è, perché è solo una possibilità. E questa possibilità di vita e non vita sta in tutta la cultura, quella che sarebbe la più liberale, sarebbe quella che non pensa che la vita umana, addirittura l'individuo, la persona, cui bisognerebbe preparare cena, pranzo e colazione, è lo zigote. Cioè l'inizio è, e no, non è l'inizio, quello è un fatto biologico puro e semplice. E questo fatto biologico di formazione, eccetera, dura fino a 24 settimane. Dopo comincia una possibilità che poi però fate voi, no, cioè gli ostetrici, di farlo vivere, perché adesso con la macchina si può fare tante cose, ma non è una possibilità di vita. Quindi forse adesso non voglio discutere, perché non mi interessa tanto se siano 23 o 27. A me interessa che a un certo momento la cosa cambia. Cioè compare questa possibilità di vita. Che poi, ecco, l'alleanza o lo scontro con i biologi, con gli ostetrici, è che basta che ci sia la formazione, la formazione di tutte le connessioni che ci hai ben raccontato tra retina, non retina, e lobo occipitale e corteccia, questa strana zona di cui ci hai parlato che poi scompare alla nascita. La possibilità di vita è legata a quello, indubbiamente, perché parliamo ed è la base di una realtà biologica che non si può negare. La vita umana è anche realtà biologica, però la vita umana è realtà biologica, ma non è che la realtà biologica è vita umana. Bisogna mettere a posto queste cose qui. Dobbiamo pensare che anche se si forma la retina, si può dare il caso che possibilità di vita non ci sia. E questo tante volte viene confermato dai neonatologi, perché ci dovresti raccontare come ti spieghi le morti precoci senza nessuna lesione organica. le morti in culla? Perché fate sempre questa strano app car eccetera in cui misurate e date la definizione di vitalità. Allora io mi chiedo, è legata questa possibilità di vita alla vitalità? E se non c'è la vitalità, c'è la possibilità di vita? Ecco, e poi così cerca siamo arrivati a completare questa parola di vitalità di cui ci hai detto magnificamente in capacità di reagire. Se non c'è la capacità di reagire, non c'è la vita. E poi adesso, confermato dai biologi anche nell'ultimo anno, dall'anno scorso, non di più, c'è una cosa che, ecco, urta contro una storia millenaria. Da sempre la vita non comincia con il respiro. La vita comincia con la stimolazione della luce, del fotone, sulla retina. E lì si mette in moto tutta una serie, un primo meccanismo che poi ne scatena tanti altri, per cui dopo, stranamente, dopo che il bambino, come si dice popolarmente, viene alla luce, sembra che non viva. Ma come, è nato morto? E 15-20 secondi sono tanti, signori miei. E allora come ce la spieghiamo? Ma non sarà che questi poveri psichiatri debbano considerare che lì succede qualcosa di biologicamente invisibile? Però inizia qualche cosa che significa il rapporto col mondo, che prima non c'è. E di fronte al rapporto col mondo, aria, vento, luce, eccetera, ci deve essere una reazione di, chiamiamola pure se vogliamo, di difesa, io direi di rifiuto, e poi dobbiamo cercare il motivo e quando questo rifiuto comincia. E probabilmente possiamo arrivare, e noi ci siamo arrivati, alle 24 settimane con la possibilità di vita, compare nella una modificazione della realtà biologica. C'è una realtà che prima non c'è. L'unica parola che trovo che è la capacità di reagire agli stimoli, perché lì gli stimoli, come l'ha chiamato, il contatto della pelle del feto con il liquido amniotico, quello è un fatto neurologico, semplicemente neurologico, non è un fatto mentale, però diventa fatto mentale soltanto quando alla nascita compare questa che bisogna dedurre sia una pulsione, cioè una forza che porta l'organismo umano a rapportarsi alla natura e agli altri esseri umani in un certo modo che non è lo stesso dell'animale, che si comporta in maniera assolutamente diversa sia nei riguardi della natura e sia nei riguardi degli altri animali. Grazie professore.